siamo al telefono con Erika Mu. Ciao intanto Erika, come stai? Ciao, sto molto bene, grazie. Parlo un po' bassa voce perché sono in tour. Ok, direi nessun problema. Sul treno. Beh, la prima volta che faccio un'intervista sul treno, ora vediamo, sentiremo magari dei fischi in lontananza. E, dicevamo, è da poco iniziato il tour estivo di Cerchi, il tuo ultimo album. Ecco, com'è stato questo inizio e com'è stato preso questo tuo ultimo album dal pubblico? Beh, io sono felicissima perché questo è un disco che in qualche misura nasce proprio dal vivo, perché è figlio di una residenza artistica in un teatro, al Teatro Petrella di Longiano, quindi già dentro queste canzoni c'è una componente live molto forte. Questa cosa secondo me il pubblico l'ha sentita, perché la percezione che io ho è che sia un dialogo molto naturale, molto pieno di verità, anche perché sono tutti strumenti suonati, che ho tutto, è tutto molto analogico, è tutto molto a volte anche crudo, nudo. Questa cosa poi nella dimensione live è molto forte. Noi abbiamo fatto un bellissimo tour invernale in teatro e adesso la ripresa di questo tour estivo è stata proprio una cosa molto molto naturale, appagante per me anche condividere questo viaggio con Flavia Massimo al violoncello e Molla a batteria, basso, insomma, a vari strumenti, che sono stati i miei compagni di viaggio anche in registrazione. Infatti, dicevamo, Cerchi è uscito il 15 novembre, è il tuo settimo album oltretutto, quindi una carriera molto ampia. E cosa rappresentano i Cerchi? Allora, è una domanda difficile, però in sintesi ti dico che tutte le storie di questo disco sono storie di circolarità, cioè sono storie di cose, persone, luoghi che si rincontrano dopo tanto tempo, e anche se loro, le cose, le persone, i luoghi sono rimasti immutati, siccome noi siamo persone diverse quando torniamo lì, gli esiti insomma sono molto diversi. Ti faccio degli esempi: ci sono il brano che apre il disco e l'ultimo in qualche modo si parlano, e sono canzoni legate al cambiamento dall'infanzia all'età adulta, e c'è in particolare questa prima canzone che si chiama Madre, che è una canzone in cui io immagino di ricordare il momento in cui sono nata, visto che purtroppo ricordo molto bene l'ultimo incontro con mia madre. Mi sono voluta regalare in questa canzone un finto ricordo del nostro primo incontro. Poi ci sono canzoni che parlano per esempio di essere andati via da una piccola città e poi essere tornati da grandi, insomma sono tutte storie di ritorni e nuovi inizi. Insomma, i tuoi brani sono, a parte le tematiche, molto belle, profonde, anche molto intime, e sono anche proprio come testi di una poesia rara da trovare al giorno d'oggi nella musica. Ah, grazie a te, direi. Ecco, volevo chiederti come nascono i testi delle tue canzoni, nel senso, c'è magari uno studio o è una cosa spontanea, insomma, come arriva l'ispirazione? Diciamo che ogni canzone ha un po' una sua storia unica, no? Però se dovessi dire qualcosa in generale, da sempre, da quando ero una ragazzina, ho cominciato a scrivere canzoni. Io scrivo sempre il testo insieme alla musica, cioè mi metto lì con la chitarra o con il pianoforte che non so suonare, o con anche semplicemente canticchiando, la melodia e le parole vengono quasi sempre insieme, almeno un primo spunto. Poi dopo c'è tutto un lavoro, come dicevi tu, di studio, ma quello è successivo. Diciamo che la prima ispirazione cerco di portarla sempre avanti con parole e musica, perché in questo modo, diciamo, questo matrimonio difficilissimo che c'è nella canzone ha una sua organicità. E poi invece altre volte magari c'è l'idea di un testo e poi con il tempo viene fuori la melodia, insomma, però per quanto è possibile cerco di fare le due cose insieme. Erika Mu, dicevamo, cantante, musicista, arrangiatrice, compositrice, anche attrice e scrittrice di romanzi. Ecco, cosa manca alla tua carriera e cosa vorresti fare che non hai già fatto? Non ho veramente idea, sono aperta a tutte le possibilità. Devo dire che ogni cosa di queste che hai citato ha alimentato l'altra nel tempo, quindi sicuramente vorrei, diciamo, fare questo per tutta la vita e non pormi neanche troppo dei limiti quando comincio a raccontare una storia, per capire se diventerà una canzone, uno spettacolo teatrale o un romanzo, diciamo che poi alla fine sono le storie che comandano. Per tanti anni sono state soltanto musica ed è comunque la cosa che per me è più è stata sempre più istintiva da quando ero piccola, però anche la scrittura, anche il teatro, non so, non te lo so dire, vedremo, magari la prossima intervista saprò dirti di più, saranno successe altre cose. Staremo a vedere. Ecco, la scrittura dei romanzi, che è una scrittura completamente diversa da quella, sì, di una canzone, come e quando è nata questa idea di scrivere due libri, appunto? Allora, il primo romanzo ha avuto una genesi particolare, perché è una storia che mi è venuta proprio in mente così, diciamo, in una giornata, eppure erano, oserei dire, 20 anni che volevo scrivere un libro, ma un po' non mi ero mai data, diciamo, il tempo, anche presa sempre dai tour, perché ho cominciato, come sai, da molto giovane a suonare, non avevo proprio questo spazio, questa possibilità. Però poi quando è successo è stata un'avventura, perché questo libro, Nel mare c'è la sete, io l'ho scritto nel 2019, è uscito il primo giorno di pandemia, cioè è uscito proprio il giorno della chiusura dei negozi nel 2020, eppure poi ha avuto una genesi, ha avuto poi un riscontro bellissimo, è stato tradotto in inglese, è uscito in India, nel Regno Unito, in Australia, è stato inaspettato. E invece questo secondo romanzo è una storia che io avevo dentro di me da 10 anni, perché è una storia molto personale, la storia della mia famiglia e della malattia di mia madre, ed è un libro che diciamo era lì, che bolliva, voleva essere scritto, e quest'anno, l'anno scorso, poi finalmente l'ho scritto ed è uscito, ed è anche lui mi sta dando tante gioie, è stato anche segnalato per lo Strega, quindi sono veramente contenta, e sono state proprio due esperienze molto diverse ma molto urgenti. Lo so che è un po' banale dirlo, perché si dice sempre, però è la verità. Beh, insomma, tantissime cose, anche tante soddisfazioni, direi. Complimenti. Sì, grazie. E, tornando un po' alla musica, il 26 marzo è uscito anche un singolo insieme a Carolina Bubbico che si chiama, sì, Mangia la mela. Ecco, sì. Com'è nata la collaborazione e di cosa parla questa canzone? Guarda, questa è proprio una cosa particolarissima, perché c'è stato commissionato dalla Regione Puglia, da Puglia Culture, di scrivere un pezzo per la loro campagna dell'8 marzo sulla parità di genere. Allora, io e Carolina ci conosciamo, penso, veramente da sempre, cioè perché abbiamo più o meno la stessa età, abbiamo cominciato a suonare più o meno negli stessi anni, siamo entrambe pugliesi, quindi ci siamo sempre incrociate nei festival, ma non abbiamo mai collaborato insieme. Questa è stata proprio l'occasione finalmente per farlo, e è stato facile scrivere questo pezzo, perché noi eravamo appena diventate mamme tutte e due, le nostre figlie hanno un mese di differenza, e quindi quando l'anno scorso ci hanno proposto questa cosa, la prima cosa che ci è venuto da pensare è stato: scriviamo una sorta di lettera alle nostre bambine, alle donne che diventeranno. Quindi è una canzone che con questo ritmo molto molto molto leggero, molto un po' sudamericano, racconta in realtà il desiderio di smontare un vocabolario impari e sostituire, trovare le parole giuste per parlare delle cose. Quindi è un invito alle nostre bambine, o diciamo alle donne del futuro, a riprendersi i perimetri giusti anche nel vocabolario, oltre che nello spazio fisico. Quindi è un grande inno di libertà, di autodeterminazione. Perfetto. E tra l'altro ci tengo a dire che questa campagna è stata coordinata poi da Flavio e Frank, che sono dei fotografi anche loro pugliesi, e che è stata loro l'idea, diciamo, di metterci insieme artisticamente. Per questo sono molto grata. Ma bellissimo, direi che adesso vado ad ascoltare a Mangia la mela con mia figlia pure, così insomma. Sì. Bello, molto, molto toccante tutto quello che hai detto. E, allora, Erika, ricordiamo intanto, Erika Mo, Cerchi è l'ultimo album, Mangia la mela l'ultimo singolo, un sacco di roba, parlavamo, sei in tour con Cerchi, appunto il tuo ultimo sì. disco, e per tutta estate, alla fine dell'estate, il 19 settembre, passerai anche da Montagnola Republic qui a Bologna. Tu a Bologna sei già stata varie volte, ti chiedo qual è il tuo rapporto con questa città? Maledetto, perché ogni volta che ci vengo non me ne voglio andare, lo dico sempre, dico questo è il posto in cui bisognerebbe vivere per tutta una serie di motivi, è una città che mi piace tantissimo ma frequento sempre purtroppo troppo poco, però nella mia memoria ecco alcuni dei concerti più belli io li leggo proprio a Bologna e dintorni, quindi non vedo l'ora di tornare con questo album, con Flavia, con Molla, con Fabio Cardone che è il nostro fonico e anche con questa nuova canzone che è estratta da Cerchi che si chiama Sedimenti, che è la canzone che diciamo stiamo suonando di più in questo periodo, quindi sarà uno spettacolo come ti dicevo molto collegato al nuovo album, anche se ci saranno poi delle incursioni ovviamente anche del passato. Perfetto, allora io se sei d'accordo farei ascoltare Sedimenti appunto per chiudere l'intervista, ti ringrazio davvero tanto e speriamo di incontrarci appunto 19 settembre Montagnola Republic con Erika Mu. Grazie infinite. Grazie dell'attenzione, ciao a te.